starti accanto, adorare te. Tutto trova un senso solo qui con te. Tu che mi ami tanto e hai sete di me. Quanta vita sento quando sto con te. Scende il mio pianto, abbandono a te. Niente ti ho nascosto, sai tutto di me. Tu che sei senso solo qui con te. Tu che mi ami tanto e hai sete di me. Quanta vita sento quando sto con te. Scende il mio pianto, abbandono a te. Niente ti ho nascosto, sai tutto di me. Tu che sei il mio cielo, la mia eternità. Quanta gioia sento qui accanto Gesù. Jesus.